su CRM Happy Radio, Déjà Vu, musica, informazione e poesia con Mary Catalano. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati su CRM Happy Radio. Questa è Déjà Vu, l'appuntamento del martedì e del giovedì insieme a Mary Catalano su CRM. Anche per questo giovedì del 27 gennaio insieme per ben due ore abbiamo iniziato davvero alla grande con questo singolo dei Planet Funk, Inside All The People. Buongiorno, bentrovati, benvenuti all'interno dunque di questo appuntamento che vi accompagnerà per circa due orette, come dicevamo, due orette ricche di musica, nonché di informazioni, curiosità, insomma un po' di tutto. C'è soprattutto protagonista la musica, come sapete, che potete segnalare anche voi al 335-56-37251, il numero per gli sms, mentre il numero fisso lo 0921-423456 lo conoscete già. Salutiamo tutti gli internettiani che da internet ci ascoltano al nostro sito www.crmepiradio.it e quelli che seguono CRM Happy Radio tramite la pagina Facebook. Interagite anche quest'oggi insieme a me, io vi aspetto fra pochissimo e continuiamo alla grande, ve lo assicuro. Su CRM Happy Radio. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Eccoci di nuovo insieme con Alanis Morissette, Hands Clean, il singolo che abbiamo appena sentito. Ancora ben trovati, siete con Mary Catalano, con voi sino a mezzogiorno anche per questo giovedì del 27 di gennaio. Ci siamo già masticati il primo mese dell'anno 2011, il tempo corre velocissimo come al solito. Come facciamo a fermarlo? Non si può, lo mandiamo avanti, lo facciamo trascorrere tranquillamente sulle note della musica, e questa volta la musica di Avril Lavigne, che ascoltiamo con What's the Hell. You say that I'm messing with your head. Yeah. ormai imminente il nuovo appuntamento annuale con il Festival di Sanremo e Avril Lavigne sarà anche lei una delle partecipanti a questa ennesima edizione. È stata confermata infatti la sua partecipazione, la partecipazione di Avril Lavigne, questa artista canadese, alla serata finale della Kermesse, appunto il Festival di Sanremo, in programma il prossimo 19 febbraio. Avril presenterà dal vivo il singolo What's the Hell, che stiamo sentendo ancora in sottofondo, estratto dal suo nuovo album che si chiama Goodbye Lullaby, in uscita il 3 marzo in tutti i negozi di musica e in digital download. Benissimo, abbiamo sentito anche lei questa mattina all'interno di questo appuntamento ricco di musica sicuramente per voi. Vi ricordo anche i nostri spazi dedicati agli artisti oggi per l'angolo 3-4-1, ovvero 3 singoli per un solo artista. Avremo protagonista Luciano Ligabue e poi avremo anche il nostro appuntamento con Inside the Song. Entreremo dentro la canzone, nonché dentro il video di una artista per me straordinaria, quale Anouk, e il video canzone protagonista di quest'oggi è Everything. Nel dettaglio più tardi tutto questo, intanto andiamo avanti con il nostro appuntamento e con la musica dunque, e questa volta con Cesare Cremonini insieme a Malika Ayane. Invece non lo è quasi mai. Chiudi gli occhi se ami davvero. Non ti dirò, segui il sentiero. Sarò Déjà Vu su CRM Happy Radio. CRM Happy Radio. This is International Big Mega Radio Smasher. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe. Dirty bit. Quando parliamo di Black Eyed Peas parliamo anche di musica da ballare assolutamente, e questa volta con The Time, questa versione ballabilissima, remixata insomma di un celebre singolo che fungeva e continua a fungere da soundtracks al film Dirty Dancing, un film famosissimo che tutti conosciamo, non c'è neanche bisogno di dilungarci per quanto riguarda questa cosa. E cominciano già i primi SMS, cominciano ad arrivare le vostre segnalazioni riguardo la musica. Questa volta è Daniela che ci segnala i Tiro Mancino con il loro ultimo singolo che si chiama L'Essenziale, e l'ascoltiamo subito, evidentemente la sentiamo già in sottofondo sempre su CRM Happy Radio. La vita comunque paghi per le scelte sbagliate, per quelle occasioni mancate che non ti fanno dormire, ma ti sanno ferire con ostinazione attraverso i ricordi di fatti e persone. Ogni giorno ci porta notizie del tempo passato e accende le luci su un volto che hai amato. È l'eterna ripresa di una scena sospesa. L'essenziale è riuscire ad avere qualche cosa di buono da fare o almeno da dire, per non restare a guardare. L'essenziale è provare a dare il meglio, perché a dare il peggio c'è sempre tempo. Infatti, come vedi, è tornato l'inverno. Cosa stava per succedere? Cosa stavo per prendere? Ma ormai non accadrà, no, non succederà. Non saprò mai come sarebbe stato se quel giorno d'estate io non mi fossi fermato, se quell'amore negato non si fosse perduto. Ogni giorno mi porta notizie di quanto ho sbagliato e accende le luci su un volto che ho odiato. Nell'eterna ripresa di una scena sospesa. L'essenziale è provare a fare in modo di avere sempre qualcosa in cui credi da inseguire, per non restare a piedi. L'essenziale è riuscire a dare forma anche a quello che ti sembra assurdo. E se pensi al futuro, non tutto è perduto. Ringraziamo e salutiamo ancora una volta Daniela che ci ha segnalato i Tiro Mancino, il gruppo italiano che darà il via al nuovo tour 2011 proprio qui in Sicilia nei teatri italiani, ma soprattutto qui in Sicilia la partenza di questo tour il 3 febbraio esattamente a Catania alle Ciminiere. Il tour 2011 si concluderà poi il 19 aprile a Civitanova Marche, Teatro Rossini. La band romana, storicamente guidata da Federico Zampaglione, proporrà i brani dell'ultimo album del gruppo musicale, che si chiama proprio L'Essenziale, che è stato pubblicato il 26 ottobre scorso ed è stato anticipato dall'omonimo singolo che è stato segnalato da Daniela, che ancora una volta ringraziamo e salutiamo. Siete sempre all'interno di Déjà Vu su CRM Happy Radio e con Mary Catalano ai microfoni, sempre più raffreddata, ma non importa, siamo qua, c'è anche la musica e arriva un'altra bella chicca di qualche anno fa. Lui si chiama Nelly. La canzone invece è My Place. I used to pride myself on being the other man, but now it's flipped and I don't want you in no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just wanted arguing. From the time I picked you up until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma, I just wanna call again. See how your day going? I know they're stressing on you. I know them times get hard, that's why I'm checking on you. It's yours truly, ma, I got a little message for you. Anything he can do good, I can do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever, it's forever. Won't you come on? issues, we're hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, ma, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, when I come around and bite it, girl, we're frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it. Una bella canzone questa di Nelly che abbiamo ascoltato quando sono le 10:28. Siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Déjà Vu, appuntamento con Mary Catalano il martedì e il giovedì insieme a voi dalle 10 sino a mezzogiorno, con tutta la musica più bella di oggi, di ieri, dell'altro ieri e di domani anche, perché no. Va bene, vi ricordo che c'è Facebook, potete interagire con noi anche tramite mail, insomma, andando a visitare il nostro sito internet crmpiradio.it, e poi potete mandare appunto messaggini al 3355637251. E a proposito di Facebook, lo sappiamo che molti dipendono da questo aggeggino che è il computer, e quindi che è internet, e dunque che è Facebook. Eh sì, una persona su 13 ha l'account. Facebook, si sa, crea un po' di dipendenza, un po', forse anche più di un po'. Chi ha aperto un suo profilo sul social network sa bene di che cosa stiamo parlando: controllare chi ci ha scritto sulla bacheca, chi richiede la nostra amicizia, dare un'occhiata a quello che stanno facendo i nostri amici, è un'attrazione abbastanza irresistibile alla quale in pochi sanno dire di no. Moltissime persone ormai hanno il loro profilo su Facebook, i numeri parlano chiarissimo, una persona su 13 nel mondo ha un account sul social network. Ma come viene usato principalmente questo social network, che veramente ormai impazza un po' dappertutto? Ci sono dei numeri, cioè è stata stilata una lista di cose particolari a riguardo, per quanto riguarda questo fenomeno della rete. Ogni giorno sempre più persone vengono contagiate dalla mania di Facebook, del quale soprattutto i giovani sono dipendenti. Su internet sono stati pubblicati i dati di questa vera e propria malattia, con i trend del 2010 che ci siamo appena lasciati alle spalle. Un'ossessione che ha contagiato nel mondo una una persona su 13, come dicevamo, una su 4 solo in America. 500 milioni gli account attivi al momento, un contagio che non risparmia anche i VIP, che sono praticamente impazziti per Facebook. Secondo questa ricerca, pare che il 48% della popolazione di Facebook, con età compresa tra i 18 e i 34 anni, controlla Facebook ogni mattina, appena suona la sveglia. Il 28% di loro invece controlla gli aggiornamenti sul proprio telefonino prima di coricarsi a letto la sera. Gli over 35 invece rappresentano il 30% degli utilizzatori abituali del social network, mentre gli users con età compresa tra i 18 e i 24 anni sono aumentati nell'ultimo anno, addirittura del 74%. Ed ecco un dato veramente interessante e anche molto inquietante: il 57% della popolazione parla con i suoi simili più sulla rete che nella vita reale. Ormai è un mondo virtuale il nostro, lo sappiamo bene. Nell'informazione, infine, viaggia su Facebook. Il 48% di giovani americani, ad esempio, consulta il sito per tenersi informato piuttosto che utilizzare altre forme di comunicazione. A dimostrazione di ciò, moltissimi media tradizionali sono approdati su social network proprio per venire incontro a questa esigenza. E voi com'è che lo usate questo Facebook? Spero con parsimonia e accortezza, e soprattutto con sincerità. Soprattutto se vi trovate in California, perché a quanto pare, attenzione, attenzione, negli Stati Uniti mentire sull'identità dei profili di Facebook c'è da rischiare. Eh sì, c'è da rischiare addirittura fino a 12 mesi di prigione. Però questa cosa magari la approfondiamo più tardi, non ci dilunghiamo in chiacchiere e andiamo avanti con il nostro appuntamento e quindi con le vostre richieste, le vostre segnalazioni. Questa volta è Paola a mandarci un sms al 335-5637-251 e ci richiede Luciano Ligabue, che sentiamo subito subito con il nuovo singolo Ci sei sempre stata. Più ti guardo e meno lo capisco, da che posto vieni? Forse sono stati tanti posti, tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare. Chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il cielo non bastava la brigata. Solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando si allungava l'ombra sopra tutta la giornata, tu eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Più ti guardo e più mi meraviglio, ti lascio fare, che ti guardo e anche se mi sbaglio, almeno sbaglio bene. Il futuro è tutto da vedere, tu lo vedi prima, me lo dici, vuoi che mi prepari e sorridi ancora. Quando il tempo non passava, passava la nottata, tu eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. E anche quando si gelava, con la luna già cambiata, tu eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Sia stato mai sprecato, nemmeno un gesto così, così, nemmeno un bacio che sia stato regalato, nemmeno un gesto così, tanto per così. Io ti guardo e meno lo capisco, quale giro hai fatto? Ora parte tutto un altro giro, io ho già detto tutto. Quando il cielo non bastava, non bastava la brigata, un risolo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando il tempo non passava la nottata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Salutone ancora una volta va a Paola, che ci ha segnalato Luciano Ligabue con Ci sei sempre stata, il suo ultimo nuovo singolo. E fra poco a CRM avremo l'appuntamento con 3-4-1, ovvero i tre singoli per un solo artista, e questa volta il protagonista è Zucchero, quindi una bella scorpacciata di musica per quanto riguarda questo straordinario cantautore italiano. Adesso una piccola pausina e poi ritorniamo con la musica, questa volta degli Scanchenensi. Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. So la parte che mi fai, diversa come tante, che sorriso inventerai. Ho i sensi deboli e pensi che non tremi. So che sguardo naviga al largo di quegli occhi, so che scioglierà come fumo l'incantesimo, ma poi mi brucia dentro la tua sete. Che ti dai qui dietro la mia porta, quale scusa inventerai? Stai di vetro in un replay, un sole che tramonta, ma non lo fai tu senza più confini, stella persa. Rotazione radiofonica dal 9 gennaio, La voglia che non vorrei, il singolo di Neck che ha anticipato un'altra direzione, il nuovo lavoro discografico del cantante, che andrà in distribuzione dal 30 gennaio prossimo e di cui abbiamo un sacco di volte parlato, no? Anche grazie ai singoli usciti e che hanno anticipato appunto l'intero lavoro. L'album uscirà in due formati, c'è da dire, una versione standard con 12 tracce in tracklist e una versione speciale con 6 pezzi proposta al pubblico ad un prezzo pari a euro 9,90 euro praticamente. Questa nuova e singolare offerta vuole andare incontro alle esigenze del pubblico e fornire una reale possibilità di scelta in termini di prezzo alla luce delle attuali difficoltà del mercato discografico. Con queste parole si era giustificata la scelta del doppio formato per questo. Dunque, si tratta del 10° album di Neck, che torna sul panorama musicale dopo 3 anni di assenza, però torna bello carico, si vede. Adesso è arrivato il momento di sentire un'altra bellissima cosa, stavolta da Anastasia. La canzone si chiama Left Outside Alone e andiamo a rispulciare nel passato, a rispolverare più che altro dal passato questo singolo bellissimo grazie alla segnalazione di Michele al 335 56 37 251, il numero che potete utilizzare anche voi per le vostre inserzioni musicali e quant'altro. Left Outside Alone, Anastasia a CRM Happy Radio. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. Poco all'interno di Deja Vu insieme a America Talano su CRM Happy Radio, anche Nio con One in a Million. CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Jet setter, go getter, nothing better. Call me Mr. Bennett, and that top model chick to your everyday hood rat. Less than all, but more than a few, but I never met one like you. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. But all the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But your soul, stand out from all the rest, baby. I could be in love, but I just don't know. Maybe one thing is for certain, whatever you do, it's working. Other girls don't matter in your presence, can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Man, I can't do for you what you can do for yourself. Even though that ain't so, baby, cause my don't know how to end. But that independent thing, I'm with it. All we do is win, baby. I could be in love, but I just don't know. Baby, one thing is for certain, whatever you do, it's working. Other girls don't matter in your presence, can't do what you do. There's a million girls around, but con Inside the Song, ovvero la canzone e il video protagonisti di questo spazio dedicato appunto questa volta a una grande artista per quanto mi riguarda, io l'apprezzo tantissimo, ma anche per quanto riguarda tutti voi, perché Anouk è sì poco conosciuta, però abbastanza famosa da poter dire che è grandiosa. Anouk, che quest'oggi è ospite all'interno di questo appuntamento con il video, non di presenza naturalmente, e con il singolo Everything andremo a vedere un po' che cosa vuole dire in questo singolo. Andremo sin dentro la canzone, ecco appunto Inside the Song, è proprio lei la protagonista. Fra poco tutto questo su CRM Happy Radio. Déjà vu, Mary Catalano, state lì, sto per ritornare su CRM Happy Radio. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Dirty bit. time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. Super richiesti al 3355637251 e Black Eyed Peas con The Time, sempre CRM, sempre Mary Catalano ai microfoni. Siete all'interno di Deja Vu, l'appuntamento che vi accompagna ogni giovedì e ogni martedì su CRM Piredio, appunto. È arrivato il momento che attendevamo con ansia, soprattutto per tutti gli estimatori di Anouk, e andiamo subito dentro la canzone. Inside the Song. Benissimo, all'interno dell'appuntamento con Inside the Song, come abbiamo detto, Anouk, un'esplosione di energia, uno dei tesori nascosti della scena musicale olandese, conosciuta ai più per la sua ormai famosa Nobody's Wife, salita alla ribalta delle classifiche nel 1997, ma fuori dal suo paese spesso succede che la gente la conosca solo per questo singolo, ovvero la canzone che l'ha portata al grande successo, che gli ha portato maggiore fortuna, Nobody's Wife. Ma Anouk non è solo Nobody's Wife. Lei è forse un artista che merita maggiore attenzione, più di quanta ne abbia guadagnata con il suo primo album. Oggi nel dettaglio ci concentreremo su un singolo in particolare, ovvero Everything, e se andate nella pagina, nel profilo di CRM Happy Radio su Facebook, troverete il video, potete vedere appunto il video di Everything che Anouk dedica a Rimon, che è suo marito, suo ex marito, e ai suoi figli. Pura energia che si scatena dal più profondo, che contiene tutta la rabbia, il cuore e il carattere a tratti dolce e a tratti amaro di una Anouk, capace di graffiare con la voce come in questo singolo Everything che sentiamo già in sottofondo, che è uscito nel 2003, un singolo aspro e molto diretto che anticipa l'uscita di Graduated Fool, un rock carico e aggressivo, molto infuocato, molto arrabbiato ma maturo, che conferma il talento di Anouk per il rock puro e semplice. La sua opera più organica e completa, grazie anche al ragionevole tempo di lavorazione. Non essendosi mai diplomata, ha sempre avuto un rapporto molto difficile con le istituzioni scolastiche, Anouk. Per questo motivo ha scelto il titolo Graduated Fool, che poi vuol dire grande stupida, tra virgolette, naturalmente. Detto dalla stessa Anouk, queste sono proprio le parole chiave dell'album. Ed è proprio il ruolo di una pazza rinchiusa in un ospedale psichiatrico quello che Anouk interpreta nel video di Everything, un video apparentemente lucubre, tenebroso, inquietante, che invece racchiude in sé il sentimento più grande e più prezioso che una donna possa sentire. Quale? L'amore, naturalmente. In questo video rappresentato come l'amore ossessivo di una pazza e per il proprio uomo, naturalmente, per la propria famiglia. Non a caso la foto che Anouk tiene in mano all'inizio del video, se lo andate a vedere, è quella di Rimon, suo marito. Anouk canta quanto sia potente e invasivo questo sentimento che non aveva mai provato prima. Quasi si meraviglia, quasi ne ha paura e cerca anche di respingerlo, ma senza riuscire a fermarlo, perché è più forte di ogni sua volontà di sfuggirvi. Questo video è la palese dimostrazione che niente è mai come sembra. Sembra un video veramente particolare, come dicevamo prima, lucubre, inquietante, e invece poi ha tutto un significato che parla di amore. E allora sentiamolo, più che vederlo, è il caso di dirlo visto che siamo in radio, in questo momento lo sentiamo, ma potete vedere il video, come dicevamo prima, su Facebook naturalmente, e potete dunque andarlo a guardare nel dettaglio e trarre tutto il significato, visto che ne abbiamo parlato questa mattina. Intanto volevo ricordarvi sempre che siete con Mary Catalano e questa è CRM Happy Radio e lo spazio Inside the Song. Inside the Song. Inside the Song. In diretta su CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. Turn the lights out in the lighthouse. I saw you coming, felt the shipwreck. Saw the wreckage. I heard you yelling just then. That's when I saw your reflection in the sand. Wondering where you were washed up. To the water, mm-hmm. I can put my hands down in it, but it won't bring nothing up. Sitting on the shore all day, waiting on the tide to come, but you can't hold on to water. It fills you up, but never stays. It's only good to wash away today, and your love. Singolo per Cheryl Cole qui su CRM Radio, The Flood, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo ancora mezz'ora a nostra disposizione e udite udite, incurabili dormiglioni, fanatici del sonno ristoratore, delle ore passate a lasciarsi cullare tra le braccia di Morfeo, probabilmente la vostra memoria è classificabile come di ferro. Proprio così, fra poco cureremo nel dettaglio questa piccola notizia, questa piccola curiosità. Intanto adesso, When I'm Get You Alone con Tiki. Oh, oh. Yeah. Baby girl, where you at? Got no strings, got men attached. Can't stop that feeling for long, no. You're making dogs wanna beg, breaking them off your fancy legs. But they make you feel right at home now. See, all these illusions just take us too long. And I want it bad. Because you walk pretty, because you talk pretty, because you make me sick and I'm not leaving. Something when she's pumping, asking for a raise. What does she want me to You can keep your toys in the drawer tonight. All right. All my dogs talking fast. Ain't you got some photographs? Cause you shook that room like a star now. Yes, you did. Mm-hmm. All these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, cause you make me sick. And I'm not leaving till you're Allora non preoccupatevi se dormite tanto, il sonno fa bene, dormire proprio fa diventare più intelligenti, quindi non preoccupatevi, però non strafiamo come al solito, non strafacciamo, ecco. Che cavolate certe volte che mi escono dalla bocca, è così, perché dormo poco, io l'ho sempre detto che dormo poco, e allora dovrò cercare di dormire un po' di più per essere sempre più intelligente, sempre più pronta, sempre più appunto scattante con i riflessi. Allora, sembra proprio che il riposo notturno, il sonno, sia l'alleato migliore della memoria, il toccasana infallibile per non dimenticare nemmeno un particolare. Il sonno è l'alleato migliore per i ricordi, l'ingrediente prezioso per migliorare l'efficienza della memoria. Ecco quanto è emerso nel corso di questa ricerca svizzera. Il segreto del successo è tutto nella sana abitudine di richiamare durante il sonno un ricordo appena formato per rafforzarlo e imprimerlo meglio nella mente. Se già altre sperimentazioni avevano confermato come richiamare durante il sonno un ricordo fosse la strategia migliore per fissarlo nella mente, il team di esperti dell'Università di Basilea ha approfondito la scoperta aggiungendo nuove evidenze interessanti. Lo studio ha coinvolto un gruppo di persone in un esercizio di memoria spaziale, invitandole a collocare una serie di oggetti all'interno di una griglia mentre nell'aria si diffondeva un particolare odore. In questo modo nel loro cervello si è fissata un'associazione precisa fra gli oggetti e il profumo. A questo punto sono stati formati due gruppi, dividendo i partecipanti tra coloro che dovevano rimanere svegli e coloro che potevano dormire. Sottoposti allo stesso stimolo olfattivo proposto in precedenza, legato all'esercizio di memoria spaziale effettuato, i dormiglioni, fra virgolette, hanno dimostrato di ricordare meglio, di aver fissato il ricordo in modo più efficace nella mente rispetto agli altri che invece non avevano dormito. Quindi dormire fa bene, questo lo sappiamo, dormiamo in modo sano, però non eccessivamente, nelle ore pomeridiane sì, il riposino ci sta, però insomma non esageriamo, no? Il troppo stroppia dappertutto e lo sappiamo. Va bene, adesso arriva il momento di dare spazio all'informazione su CRM. Ritorniamo subito dopo, ancora musica richiesta da voi al 3355637251 con Elisa. Tutto questo fra poco per... su CRM Happy Radio. Yeah.

Jovanotti feat. Stilophonic, Tutto l'amore che ho, in versione remix qui su CRM Happy Radio. Ancora musica internazionale, questa volta con Tina Turner, che sentiamo con un'altra bellissima canzone di alcuni anni fa che si chiama Open Arms. E tutto questo grazie ad Attilio, che ci ha segnalato questa canzone tramite SMS al 3355637251, naturalmente il numerino magico che potete utilizzare tutti voi. Your friendly advice, I'll be your agony, your trusting ear. Release your deepest secrets, I'll be sincere. It's an age-old situation, there's nothing to fear. Whatever life throws at you, your friend is here, right by your side. When love leaves you cold, lies have been told. That message is clear. Whatever life throws at you, your friend is here, right by your side. Ooh. When love means you call. Open Arms, Tina Turner, grazie ad Attilio, un saluto anche a te e un saluto anche a tutti gli internettiani che in questo momento ci ascoltano da tutti i lati praticamente, nel senso che tramite internet, tramite questa grande macchina potente possiamo veramente arrivare ovunque, e quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno sentendo da ogni dove tramite il nostro sito www.crmpiradio.it o anche seguendo la nostra pagina di Facebook, il nostro profilo su Facebook appunto. Intanto breve pausa, poi ritorniamo ancora qualche minuto insieme e poi vi ricordo anche l'appuntamento dopo Déjà Vu con Carta e Penna. CRM Happy Radio. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line, and we don't know how. How we got into this mess is a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night, saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. And we both know how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night, doing things we haven't for a while. Smiling, but we're close to tears. Even after all these, just now got the feeling that we need it for the first time. Due ore in musica sono già trascorse, due ore bellissime per quanto mi riguarda, spero che sia lo stesso anche per voi. È stato un piacere essere in diretta su CRM Happy Radio con l'appuntamento Déjà Vu ogni martedì e giovedì insieme a voi. Mary Catalano prontissima con la musica e tutto quello che poi c'è all'interno, e quindi a questo punto non posso far altro che rinnovare il tutto a martedì prossimo, sempre dalle 10 sino a mezzogiorno. Intanto fra qualche istante vi ricordo anche l'appuntamento con Filippo Glorioso e carta e penna. Filippo che è già in studio pronto per voi, per stare insieme a voi per circa un'ora su CRM. Vi auguro un felice weekend visto che ormai è alle porte. Vi lascio con il CD della settimana. Bye bye, alla prossima.